Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera da Blu Radio Sera, la voce di Agostino Spolaore e anche da quella del mio ormai fidato gemello, possiamo chiamarti così? Sì, buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa è la vostra emittente, si chiama Blu Radio Veneto, sono le 21 in questo preciso istante, oggi è giovedì 6 ottobre 2011, siamo in diretta ovviamente, questa è la frequenza che state ascoltando, è 88700 oppure 94600. Vi ricordo anche i nostri numeri telefonici, quello in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms, se volete mandarci qualche saluto, qualche messaggino, insomma... ci fa piacere ovviamente, vi ricordo è il 346 23 20 033. Vi ricordo anche un'altra cosa, il nostro sito è semplicemente www.bluradioveneto.it, dove troverete tutte le notizie inerenti soprattutto alla nostra regione, ma anche le recensioni degli artisti, la presentazione dei dischi eccetera eccetera. Troverete anche la classifica che è curata dal nostro direttore artistico della musica rock ovviamente, che si chiama Alberto Prisco, che salutiamo. Vi ricordo anche le pagine su Facebook, dopo che presentiamo l'artista di questa sera. Allora, semplicemente Blu Radio Veneto, oppure c'è la seconda pagina dedicata interamente alla musica rock, che è Blu Radio Veneto Rock Wave. Ho detto tutto, mi sembra, Maurizio. Perfettamente, hai presentato. Poi sei partito alla Svizzera, ora 21. Alla Svizzera, ora 21. Sempre puntuali, bisogna essere puntuali. La gente ci sta aspettando Riccardo Piazza, alias Vuoto Apparente. Buonasera a tutti. Buonasera Riccardo. Ciao, buonasera. Benvenuto a Blu Radio. Grazie. E grazie di aver accettato l'invito, ovviamente. Grazie a voi. Ovviamente non sei solo, ti sei fatto accompagnare da una... bassista. Sì. Sì, salve. Ciao Simona. Salve a tutti. Simona Alletto, sì. Tu fai sempre parte del progetto. Sì, lo accompagno ormai costantemente. È una curiosità, parlavo prima con Riccardo, la curiosità di avere una bassista donna in una band non è semplice. Tu mi hai detto che è anche una batterista donna, quindi è una cosa molto bella, meravigliosa secondo me, musicalmente. 50% di uomini, 50% di donne. Siamo molto democratici. Esattamente, per fare un bel sound di rock, quello è importante. E non te la sei portata stasera magari con un caon? Questa sera è impossibilitata, quindi ho solo il 50% delle donne. Perfetto. Ma ci sta ascoltando? Magari. Ci sta ascoltando, naturalmente. Si chiama Cristina. Cristina, ciao Cristina. Allora, Vuoto Apparente, Riccardo Piazza. Esatto. Come preferisci? Ti chiamiamo Vuoto Apparente come band? Come volete, per come preferite voi, Riccardo va benissimo. Riccardo va benissimo. Sì. Allora, questo progetto, Vuoto Apparente, da cosa nasce, come è nato? Sì, il progetto Vuoto Apparente è sostanzialmente la mia voglia di riprendere alcuni vecchi testi che ho scritto nell'epoca della mia, diciamo così, dall'adolescenza fino ai 18-19 anni, che è la mia prima anche esperienza musicale che ho avuto con altri gruppi del genere rock, del genere pop, insomma, e che però fino ad allora erano rimasti chiusi nel mio cassetto. Anche io ho detto, però potrei anche iniziare a fare musica anch'io, quindi perché non mettersi in proprio? E da lì è nata l'idea di unire sotto questi due concetti, Vuoto e Apparente, questo progetto cantatoriale tutto mio, appunto il nome Vuoto Apparente. Questo è il secondo EP che hai fatto, il secondo album praticamente. Primo... Questo sì, che voi avete ascoltato, è il nostro secondo album autoprodotto, con cui ho collaborato anche un'etichetta discografica, sì, certo, appunto, che nel nome era Movimento Flaner, della provincia di Milano. Ci ha dato una mano. Sì, ci ha dato una grossa mano. Abbiamo registrato questo CD in studio tutti insieme a Palermo con i nostri strumentisti di accompagnamento, con la qui presente. Con Simona, sì, ci siamo, Cristina, eccetera. Cristina, e poi ed anche Alessandro. No, allora, quando abbiamo registrato il CD, ancora Alessandro non l'avevamo incontrato. No. E allora lì ho curato io stesso personalmente le tastiere, perché mi occupo anche, diciamo, di suonare la tastiera qualche volta. E di recente invece si è unito ad Alessandro, è stata una bellissima esperienza, un'unione che ha dato più forza al progetto. Ma adesso in quanti siete? Allora, adesso siamo fondamentalmente quattro. Sì. E vi presentate live in quattro? Ci presentiamo live, sì, in quattro, dove l'occasione lo propizia, insomma. Certo, quando capita. Certo. Ma la tua base è Milano o Palermo? E la mia base adesso è Milano d'adozione, diciamo, come vita. Adesso sto a Milano, vivo a Milano anche per studio mio personale, poi però la mia base musicale comunque rimane a Palermo, perché... Palermo città? Palermo città, sì. Io sono stato in agosto ad Alcamo. mi hanno invitato, bel posto. Mi hanno invitato ad un concerto. Sì. Bel posto di mare anche sulla costa. Bellissimo. Molto bello, molto anche bello. Castellammare. Sì. E quindi diciamo queste due case, Palermo e Milano, insomma, adesso. Tu parlavi in un'intervista della situazione della produzione che c'è in Sicilia praticamente. Sì, sicuramente. In questo momento. Oltre i nomi storici, Battiato, Carmen Consoli, hai citato un Pan del Diavolo, una band siciliana. Sì, il Pan del Diavolo è una band siciliana che onestamente apprezzo moltissimo, perché è un duo, diciamo così, folk and roll, si potrebbe dire un'unione tra folk and rock and roll e folk, è molto, molto originale, peraltro un gruppo che viene proprio dall'entroterra palermitano, certo. E porta avanti anche un progetto di un certo spessore, sono riusciti anche a farsi avanti molto bene, ecco. Mentre tu hai definito il tuo progetto un misto tra pop e rock e folk, perché usi anche degli strumenti vicini al folk. Sì, sicuramente la presenza della chitarra acustica. Anche i sonagli hai citato. Ed anche i sonagli, naturalmente, sì, perché oltre alla presenza anche di un'armonica bocca, certo, che fa da contorno a questo tipo di genere, no, è prerogativa anche del mio progetto affiancarmi appunto ad un basso, eventualmente anche a delle tastiere o degli effetti. Ecco, l'importanza di Simona affiancarti a un basso, tu hai detto. Il basso è fondamentale in tutte le band rock. Sicuramente. Anche nelle band pseudo rock, quindi sì, un po' di folk, eccetera. Che importanza ha avuto il basso per la tua costruzione musicale? Beh, il basso sicuramente dà quella linea di accompagnamento alla chitarra che secondo me in alcune canzoni è inscindibile. Quindi è vero che alcune canzoni possono venire bene anche solo in un'atmosfera un po' più raccolta, magari solo con una chitarra, però il basso dà quell'accompagnamento insostituibile in certi pezzi che appunto vengono registrati quando si vuol dare loro una forma più pop, diciamo. Sì, certamente. Dà un po' di corpo. Giustamente, dà un po' di ritmo, di movimento. Esatto, sì, esatto, sì. La linea melodica. Esatto. Sì. Io direi di far ascoltare già subito qualcosina. Decisamente sì. Facciamo ascoltare qualcosa dal disco o vuoi suonare subito? Ma possiamo anche far ascoltare qualcosa dal disco. Benissimo. Hai scelto Reso Incontro, giusto? Questa canzone cos'è? È una canzone, sì, che diciamo che a quale sono particolarmente legato di questo CD, perché è un misto di suoni veloci su una base di chitarra appunto acustica, ed è diciamo nel disco quella che dà forse più energia di tutte. Sì, io quando l'ho sentita, noi abbiamo fatto la recensione che è anche curata dal nostro direttore artistico, io ho sentito all'inizio, chiaramente iniziale il pezzo, c'è Jonathan Richman, tu lo conosci, ma per gli nostri ascoltatori che forse non lo conoscono, è un musicista americano, Stoli Weller, cioè un musicista proprio chitarra e voce, ma che ha determinate influenze, e all'inizio della tua voce, in modo di andare, secondo me ricordava quel momento. Poi chiaramente il brano si sviluppa in un altro sistema, sì, lo ampli, lo velocizzi come è giusto che sia. Sì. Però a me è piaciuto subito e abbiamo scelto come apripista del tuo album qui a Blu Radio Veneto. Benissimo. Gira sempre, si sente sempre questa. Esattamente. Sì, è una di quelle che si sente spesso. Sì. Abbiamo inserito questa. Ok, sì. Reso Incontro, Vuoto Apparente dal loro CD che si chiama Pan di Zenzero. Mentre parlavamo seduti al bar di Firenze, usciti dal pantano, dalle nostre credenze, quando senza reti sull'autobus in Parigi, ormai era troppo tardi per rompere gli indugi con te, e già sognata tutta la notte, poi a Piccadilly, ho l'aria molto dandy, ho l'aria molto dandy, dandy, e primi raperenti, un lucchio alla torre, sotto i cieli di Poznan, e sui mulini di Amsterdam, e primi raperenti, un lucchio alla torre, sotto i cieli di Poznan, e sui mulini di Amsterdam. Camminavo in Madagascar sulla Rambla, pensavo quanto tempo che passa e non si sogna, 8 giorni e 7 notti in Africa o in Irlanda. Mi sveglio su a Milano, in zona Laurentaggio. O sei grato in dura peggio, ero primi da bere, in un locale adore, tutti i cieli di Bosnia, o sui mulini di Amsterdam, ero primi da bere. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci, abbiamo proprio sentito questo pezzo che subito è entrato in mente. Parlavamo prima con Simona e con Riccardo, che è un pezzo che si ripeteva continuamente, che non ti lasciava assolutamente. Come l'avete registrato? Avevate questa sensazione? Sì, sì, sì. Assolutamente sì. Subito dopo aver finito di registrare per un paio di giorni avevamo in mente abbiamo sempre questa canzone. Continuato a cantare questa canzone. Che... Vuol dire che il pezzo valeva. Se rimane in mente, valeva vuol dire qualcosa, valeva, sì, cioè dava un certo stimolo. Cioè, come musicalità, armonia, funzionava. Sì. E come mai l'avete messo come traccia numero 3? Poteva mettere come traccia numero 1 che dava proprio la spinta all'album, o così una mia idea? Maurizio, la traccia numero 2. Sì, perdono, la traccia numero 2, come mai? Perché sicuramente il primo pezzo d'apertura è un pezzo leggermente diverso, sì, è un pezzo con un intro musicale molto prolungato. Volevo far sentire, dar risalto un attimo a tutta la strumentazione completa prima di passare direttamente al pezzo più veloce. Ho capito. Chiaro. Le canzoni, Riccardo, le scrivi tutte tu? Sì, tutte le canzoni che voi ascoltate, che avete ascoltato questa sera, e quelle che vi faremo ascoltare sono scritte da me ed arrangiate musicalmente come linea melodica inizialmente da me, poi escono dalla chitarra in maniera grezza e dopodiché con i ragazzi ci mettiamo a lavorare su. E le raffiniamo esteticamente. Ma e il testo come nasce? Il testo, beh, sicuramente sono... solitamente io scrivo per necessità, cioè quando sento bisogno di esprimere qualcosa che magari a parole non riuscirei a dire, o riuscirei a dire male, allora sento che quello è il momento di scrivere qualcosa che mi ha particolarmente colpito. Può essere un evento anche della vita di tutti i giorni, o un ricordo che mi è tornato in mente, magari sono frazioni di secondo, poi ci ripenso e butto giù quelle quattro righe che mi... Col classico telefonino? No, più che altro. Io invece ho un po' un taccuino retro, diciamo. Ah. sì. Tradizionale. Sono più tradizionale. E quindi tu scrivi nel momento che... Ho un taccuino, sì, infatti è un dilemma quando non trovo la penna, per esempio. Magari ti capita di notte. Che... E magari mi viene il giro armonico in mente, poi mi scordo la penna e devo buttarlo giù subito. Poi hai detto una frase su un'intervista che è molto interessante. Personalmente ho sempre contato molto nel rapporto con il pubblico che parli di live qua. Sì, è un rapporto che io ho deciso di instaurare fin da, diciamo, i primi concerti che ho fatto. Con i ragazzi che mi seguono c'è un rapporto splendido e cerchiamo, diciamo, di rendere anche il pubblico parte di questo nostro rapporto, cercando di coinvolgerlo, insomma, di fare anche qualche battuta. Il pubblico secondo me deve essere parte attiva, non solo ascoltatrice passiva, certo, insomma. Non soltanto io suono, tu ascolti, esatto, come hai detto, esatto, deve essere una sorta di connubio tra pubblico e artista. Perfetto, è una bella cosa questo, spiegare al pubblico com'è il concetto. Il pubblico lo capisce, però viene spiegato dall'artista, si apre meglio il discorso. Sicuramente hai un piano in più per comprendere quello che stai ascoltando. Certamente. Certo. E io direi di... apriamo il pubblico. Anche perché lo vogliamo sentire. Siamo il pubblico, quindi stasera. Lo voglio sentire dal vivo, insomma, anche perché credo che l'artista si senta... Anche perché la canzone nasce così, poi, tra l'altro, giusto? Sì. Con la semplice chitarra, nasce, fai le prove, sì, e poi sì, ci sì, sono sì. tutti gli arrangiamenti. Poi ovviamente gli arrangiamenti vengono fatti su, però la canzone nasce sempre dalla chitarra grezza, insomma. Sì. E quindi nuda e cruda è sempre più. Allora noi vogliamo sentire questa versione, questa canzone che si chiama? Questa canzone che faremo ora è Pan di Zenzero. Ah, proprio quella che dà. È proprio quella che dà, sì. La title track, come ci dicevano una volta. Sì, sì, è quella che dà il nome all'album. Esattamente. Diciamo, quello caratterizza un po'. Ok. Luna, i tuoi occhi, quelli grandi che non vedo più. Andiamo a stare in centro, perché in centro ci va di più. Compriamo un giradisco, ed il disco lo scegli tu. Troviamoci un rifugio, dove bere e parlare è. Baciarci di nascosto, al costo di due scimè. Ho fatto di tutto insieme a te. Ho parlato di tutto insieme a te. Ho mangiato di tutto insieme a te, compreso il tè. Ho comprato un po' di pan di zenzero, l'ho messo dove c'eri tu. Poi ci ho costruito un pupazzo e l'ho fatto tale quale te. E ho comprato un po' di pan di zenzero, l'ho messo dove c'eri tu. Poi ci ho costruito un pupazzo e l'ho fatto tale quale te. Baci in gita qua, baci in macchina. Baci baci qua, baci baci là. Baci baci foto, baci seppia. Baci baci qua, baci baci là. Baci gita qua, baci macchina. Baci baci là, baci baci qua. Baci baci foto, baci seppia. Baci baci qua, baci baci là. Ho fatto di tutto insieme a te. Ho provato di tutto insieme a te. Ho mangiato di tutto insieme a te, compreso il tè. E ho comprato un po' di pan di zenzero, l'ho messo dove c'eri tu. Poi ci ho costruito un pupazzo e l'ho fatto tale quale te. E ho comprato un po' di pan di zenzero, l'ho messo dove c'eri tu. Poi ci ho costruito un pupazzo e l'ho fatto tale quale te. Ho comprato un po' di pan di zenzero, l'ho messo dove c'eri tu. Poi ci ho costruito un pupazzo e l'ho fatto tale quale te. E ho comprato un po' di pan di zenzero, l'ho messo dove c'eri tu. Poi ci ho costruito un pupazzo e l'ho fatto tale quale te. Il pan di zenzero è un cibo dolce, sostanzialmente costituito dal pane, un cibo che afferriamo e con cui abbiamo a che fare quasi tutti i giorni, e dallo zenzero che aggiunge un attimo di dolce malinconia senza esagerare. Sono parole tue. Esatto, sono parole mie, sì. Hai ragione. Sì. Lo trovate su questa... Sì, sì, sì. Era proprio una mia, diciamo, mini descrizione del brano, sì. Sì, sì, sì, sì. Era anche un tentativo di inquadrare un attimo meglio, di dar forma... al CD che prende poi il nome dal brano stesso. Insomma. Come mai questo nome, questo pan di zenzero? La scelta è ricaduta dal fatto che io volessi dare al CD, imprimere una sensazione particolare a chi lo ascoltasse, da un'unione fondamentale che deriva dai miei testi, che sono appunto in questo CD particolarmente l'espressione di qualcosa di particolarmente comune, insomma sono fatti di tutti i giorni o ricordi quotidiani, che però appunto danno una certa malinconia a chi li sente con una sorta di dolcezza apparente, insomma è un po' l'essenza del disco, il pan di zenzero. Ho preso tutti questi concetti, li ho condensati in qualcosa di comune, di molto comune, che possa essere alla portata di tutti, e mi è uscito fuori il pan di zenzero, insomma. Anche se una volta non parlavi così, perché hai detto sempre in un'intervista, sto cercando di tutte le cose che hai detto, ma sono interessanti per capire, che una volta non avevi mai pensato che quello che scrivevi potesse andare oltre, però un giorno ti sei svegliato una mattina e hai detto no, adesso voglio far sentire agli altri le cose. È una bella cosa questa qua, sorpassare certi momenti e andare oltre, sorpassare, cioè scavare il muro e scavalcare il muro ed essere chiaramente anche per gli altri. Questa è una cosa positiva. Sì, una bella cosa, perché sicuramente è stato un superare se stessi, perché diciamo, una persona matura ha certe convinzioni all'inizio di quello che inizia a fare, della propria carriera, il proprio lavoro, e poi magari andando avanti nel tempo riesce a convincersi che qualcosa di utile, magari qualcosa di buono, potenzialmente buono anche per l'ascolto degli altri. Certo, era, quindi era, ci vuole il coraggio di buttarsi. Certo, ma era assurdo quindi tenersi tutto per sé le cose. Ma... sì, avevo bisogno di comunque metterle a disposizione anche di qualcun altro, per vedere anche se magari qualcuno potesse ritrovarsi in quello che poi io dicevo, certo. Cosa che mi fa sempre un gran piacere. Certamente, musicalmente parlando, Simona parlava della traccia numero 2, Reincontro, che ti rimaneva nella mente, anche questa rimane nella mente continuamente, questa costruzione ossessiva, cioè ipnotica, continua, che gira, perché è un ritornello che rimane subito, è accattivante, immediato. È una sua caratteristica. Una caratteristica di Riccardo. Sì, abbiamo notato proprio questo, che ogni pezzo che scrive ha un ritornello, una frase. Un refrain che ti prende. Sì, che almeno per 2 giorni non ti lascia. E come l'hai colorato questo refrain di Pan di Zenzero? Beh, in Pan di Zenzero sicuramente ho seguito una metrica, diciamo così, che poi è una delle metriche che io ho adottato spesso nei miei primi brani, che è ovviamente quella semplice di strofa ritornello. Ho cercato di alternare alla strofa un ritornello significativo con un intro precedente al ritornello, e sicuramente è una delle più semplici metricamente parlando, che però a volte riescono a dare quell'imprinting in più che appunto poi non lascia più la mente. Noi l'abbiamo definito un pezzo pop, non so se sei d'accordo. È abbastanza, lo è per certi versi, e per altri è puramente intimista, sì, diciamo, certo. Personale, sì. Cioè un po' così, un po' così. Tra un cantautoriale pop, sì, esatto. Assolutamente sì. Come nasce la collaborazione tra voi, tra te e Simona e gli altri? Beh, noi ci conosciamo già da tempo, abbiamo collaborato anche in un gruppo precedente di un altro stampo completamente opposto, diverso. Poi ci siamo lasciati per un breve periodo, poi l'ho riscoperto per caso in un locale a suonare solo chitarra e gli ho proposto, ma se per caso ti serve un accompagnamento di basso, io sono disponibile. E da lì poi abbiamo trovato anche la nostra batterista e successivamente anche Alessandro. Alessandro. Si è formato in maniera molto naturale, comunque, incontri fortuiti che poi hanno sviluppato tutto questo. Sì. Questo per quanto riguarda Pan di Zenzero, ovviamente, questo anche prima c'era Per quel che riguarda Alessandro è stato un incontro postumo, nel senso successivo. Con loro due, con Cristina e Simona. Anche quello prima? Mi sono incontrato, no, per il CD fatto prima era solo un CD solamente mio, registrato volevo. Anche molto artigianalmente. Ma esiste la traccia, qualche traccia di questo disco? Esiste, sì, esiste qualche traccia, ormai credo che fisica è proprio difficile da trovare, copia fisica è molto difficile da trovare, però credo che qualche traccia ancora cercandosi. Un disco cantautorale, insomma. Anche quello lì era un disco prettamente cantautorale, erano diciamo i primi giri embrionali che io buttavo giù e che ho unito a mo' di traccia, uno dietro l'altro. Dal titolo comunque anche dal titolo questo... Discordi e Concordi, sì. Discordi e Concordi. È stato distribuito per una indipendente di Roma, credo digitalmente, soltanto digitalmente, quindi fisicamente non se ne trovano proprio. Dopo è avvenuto l'incontro con loro due per quel che riguarda Pan di Zenzero. Lì siamo anche andati in studio, sono anche aumentate un attimo le possibilità di tutti quanti. Ecco. Proprio l'incontro con il locale te citavi, tu hai detto sempre in un'altra intervista che mi devo arrampicare giorno per giorno, devo trovare sempre il sistema giorno per giorno fra locali, localini, eccetera. Sì, era così, è ancora così? Sì, no, adesso è un po' diverso. Mica tanto, è sempre così, sempre c'è tanta difficoltà da uscire dalla Sicilia per fare qualcosa. Sai, forse c'è più difficoltà a rimanere dentro. Rimanere dentro, ho capito. È più facile andare fuori, trovare comunque dei locali disposti a farti suonare fuori, ancora Palermo, perché magari Catania è un po' più avanti. Più aperta. Sì, sì, però Palermo ancora Catania è molto difficile. Da Carmen Consoli, l'etichetta famosa di Catania. Quindi sì, era sicuramente una zona, per quel che riguarda anche il nostro lavoro, quindi l'espressione artistica, è sicuramente un po' più aperta. Certo, decisamente Palermo, più aperta. C'è qualche difficoltà in più. Sì, si fatica un po'. Difficoltà in più, sì. Beh, però ce ne sono di artisti anche lì, moltissimi. Magari sono un po' nascosti, non sì, sai, sono a volte Palermo ha qualche etichetta anche di produzione buona, da cui fa sfornato qualcosa di interessante, perché le cose interessanti sono uscite da Palermo. Il problema è che certe volte è un po' un circolo chiuso in se stesso, ovvero non aperto alle nuove proposte, quindi il giro è sempre quello e suonano sempre quasi sempre gli stessi e le nuove proposte faticano ad emergere, insomma. Sì. L'ho toccato con mano questa realtà. Sì, sì, mi sono accorto. Hai avuto modo di vedere. Sì, sì, sì. Oddio, ti dirò che non ero sicuro di questo mio modo di pensare, nel senso che, sai, stando lì pochi giorni non è che potessi fare un resoconto finale della cosa. Certo. Però insomma l'immagine, la sensazione era proprio quella che mi veniva alla mente. Insomma, io ho conosciuto diversi artisti là, però sono tutti emergenti che fanno fatica ad emergere, in giro di parole, e fanno veramente delle belle canzoni, della bella musica, però lo spazio che hanno è o organizzano un grande concerto come è capitato a me, che quindi chiamano uno all'altro, quell'altro, oppure si devono accontentare a fare cover, magari, se capita. Sì, purtroppo sono le cover band poi anche quelle un po' più fortunate da questo punto di vista, perché forse propongono vecchie icone immortali, diciamo così, che la gente comunque conosce. C'è un po' di diffidenza verso il nuovo, ecco. Ma le cover band rovinano gli artisti emergenti, secondo me non è che rovinano, ma quasi, cioè li mettono un po' da parte. Sicuramente c'è una sorta di mercato, ovviamente, dell'hype. D'altronde bisogna vivere, qualcuno dice. D'altronde, esatto, bisogna pur tirare d'altronde avanti. D'altronde il locale poi richiede le cover. Se poi le richieste sono solo quelle. E quindi le band sono portate a dover suonare cover per poter certo. suonare troppo in un locale. Troppo i musicisti vedono che la situazione è quella, quindi appunto magari hanno nel cassetto dei pezzi che propri, non possono proporre, appunto per questo motivo. Qualcuno fa, cioè furbo, cioè gioca fra le cover band, inserisce qualche pezzo sì, suo. Sì, ci vuole anche questa furbizia comunque. Certo. Qualche spazio forse per i contest possono avere un po' più di risonanza per gli emergenti, perché appunto sono comunque contesti un po' più grandi, cioè sono situazioni allargate dove tu vai a chiamare magari quel gruppo emergente o quell'altra proposta, dove quindi hanno espressione, un palco anche per loro. Però effettivamente una serata da soli è un po' più complicato. O fanno tanti matrimoni. O fanno tante feste private, matrimoni. E, cosa e lì ci sono 500 persone, quindi già. È lì è un certo pubblico c'è. Però di cover. Però sì. Ovviamente. E invece adesso noi non ci ascoltiamo cover, ci ascoltiamo qualcosa di tuo, perché ci viene. Noi vogliamo sentire sempre qualcosa dal vivo, ovviamente. Cosa ci proponi in questo momento? Dunque, adesso pensavamo di proporvi direttamente un pezzo recente, di recente scrittura. Che farà parte del nostro prossimo lavoro dal punto di vista di stampo discografico. Ne parliamo dopo, magari, del nuovo disco. Okay. Questa canzone, come dicevi, si chiama? Si chiama Dall'America con Amore. Ok. Si chiama Dall'America con Amore. Tutto sommato non diresti che va male, se va già peggio ancora prima di parlare, e non ti resta che mandare tutto a puttane da quelle bulgare, le più economiche. Oggi t'ho vista sotto un brutto temporale, e le tue mani erano fredde da morire, e la mia bocca non riusciva più a baciarti, amore, come tanto tempo fa, sotto quell'albero là. Ma gioia, saliamo su in America, vediamo se domani nevica anche a Timbuktu. Voglio una piantina esotica, dare le gare a festa solo quando ci sei tu. Gioia, saliamo su in America, Vediamo se domani nevica anche a Timbuktu. Voglio partire per l'America, vedere se domani nevica anche a Timbuktu. Il cantautorato, intellettuale, lo stesso cinismo che è proprio d'un animale, sono quelle cose che non ho. Gioia, saliamo su in America, vediamo se domani nevica anche a Timbuktu. Ma voglio una piantina esotica, dare le gare a festa solo quando ci sei tu. Gioia, andiamo su in America, vediamo se domani nevica anche a Timbuktu. Voglio partire per l'America, vedere se domani nevica anche a Timbuktu. Molto bella questa. Decisamente molto molto bella. Molto bella, suonata benissimo. E diciamo, giustamente come diceva Simona, anche questa ha quella caratteristica che prende immediatamente. Quanto voglia hai di America te? Quanto voglia hai di America? È tanta. Musicalmente parlando, e non solo musicalmente parlando. La canzone nasce da un, diciamo così, da una... da un sogno ricorrente, che è il tema del viaggio, fondamentalmente. Certo, certo. Il tema del viaggio, che è anche questo un tema presente sia in Pan di Zenzero con Resincontro, che appunto presente, sarà presente in questo prossimo lavoro eventualmente, e anche questa canzone che è Dall'America con Amore. Il significato è appunto l'unione, ho voluto prendere anche un'unione un po' ironica, no? Perché sì, certo. C'è questa, c'è il famoso film che viene dalla Russia con Amore, no? E, il sentimento che lega il tema del viaggio alla persona che lo sogna continuamente, un'aspirazione che a mio avviso andava messa su carta e musicata, e quindi è il sogno di questo viaggiante anche, che può essere, non so, quello che ricerca la fortuna ai primi del Novecento andando in America e portandosi dietro la sua bella, insomma, certo, il suo amore. Agostino, secondo me, non so se sei d'accordo, c'è la velocità nel pezzo, ma c'è la melodia che nasce, che si sviluppa. L'hai velocizzata, giustamente, un pezzo molto accattivante, veloce, un po' di... No, è una ballad pop, possiamo dire? Sì, è una ballad pop, è abbastanza ritmata. Sì, decisamente ritmata. Perché appunto c'è sempre quel discorso di una sorta di presa dell'orecchio, sì, certo, di chi ascolta. Certo. Che e poi Simona dava il tocco col basso. Simona dava quel tocco, volutamente, anche, dava soprattutto quel tocco. Nei giri, diciamo, certo, così, di stacco tra una strofa e l'altra, che sono stati inseriti volutamente anche per risaltare le qualità di uno strumento come il basso. Certo. E con l'altra formazione, come la sviluppate? Come la svilupperete questo pezzo? Questo è un embrione, praticamente. Questo, sì, è l'impalcatura iniziale del pezzo stesso. Certo, la batteria dà dà ovviamente un ritmo ancora più incalzante. Certo. Un secondo basso, possiamo dire, la batteria, sì, in quei momenti. Assolutamente. E naturalmente ci sarà anche l'aggiunta di un pianoforte, di alcuni effetti particolari che noi abbiamo in mente, che insomma serviranno a dare quella completezza che adesso avete sentito solamente come impalcatura, diciamo. Agostino, può essere un singolo per noi. Lo stavo per chiedere io, mi hai fregato la domanda. È un probabile singolo questo? No, non ti nascondo che l'idea non la scartiamo, non la scartiamo perché tra tutte quelle che stiamo andando un attimo a definire meglio come le basi del prossimo lavoro, questa qui è una delle più, diciamo così, più. Anche quelle che ha preso un po' più tutti quanti, sia per i temi trattati, abbastanza personali, ma al solito un po' anche di rilevanza comune, no? E poi anche per questa melodia ben costruita, che insomma segna secondo me anche un attimo un'evoluzione da quello che è il mio il lavoro di Pandizia. Com'è, appunto, ce lo vuoi anticipare questo nuovo disco? O quando, intanto quanto pensi che uscirà? Allora, inizialmente, intanto sono ancora lavori in via di definizione, quindi non ti so dire una data precisa attualmente, però... Cioè un mese, ti posso dire un mese nel quale forse inizieremo a mettere in atto qualcosa anche in studio, che è il mese di dicembre. Poi ovviamente passeranno tutti i tempi tecnici dovuti, del caso, insomma. Tu prima hai detto come fai i pezzi, però adesso hai scritto questo pezzo, l'hai fatto sentire a Simona, a Cristina e al tastierista, oppure era un embrione chitarra e voce solamente all'inizio? Ti dirò, io quando scrivo i miei pezzi li scrivo appunto testualmente parlando, poi li arrangio musicalmente, e la canzone grezza dalla chitarra era già finita. Ah, ho capito. Dopodiché l'ho fatto sentire alle ragazze. Poi noi votiamo. E loro un po' come giuria si mettono lì con i cartelli. Poi un po' dalle nostre espressioni lui capisce se la canzone va bene oppure no. C'è da lavorare, no? Questa scartiamo. No, c'è da aggiustarla. Sì. Ci sono il bello di avere anche C'è molta democrazia allora tra di voi. C'è una sorta di... C'è molta democrazia tra di voi. Sì, siamo molto democratici, infatti... Comandi diciamo sempre tu, insomma, ecco. Certo, diciamo che io ovviamente ascolto tutti i loro consigli, naturalmente, poi vediamo un attimo di metterla ai voti e di decidere, Ma influiscono molto loro, insomma. Loro hanno un peso, sicuramente. Cioè, fammi capire, tu parti con un'idea musicale, gliela esponi a loro... Parto con un'idea già di mio, comunque anche come chitarra e voce, completa. Ah, okay. Dopodiché la espongo a loro e loro a volte non hanno quasi niente da ridire se non l'aggiunta appunto strumentale. Sì, noi cerchiamo, io e Cristina principalmente cerchiamo di spingere un po' più sul rock. A volte loro mi... Più cantautorale lui sarebbe. Sì, lui la parte più cantautorale, noi cerchiamo di dare un po' di energia. Più ritmo, più energia, esatto. Qualche volta insomma ci riusciamo, altre volte riusciamo a trovare dei compromessi, insomma. Sì. E poi ci metti qualcosa di tuo anche dentro, Simone? Sì, comunque ognuno di noi fa il suo piccolo lavoro. Sì, Cristina con la sua batteria, io col mio basso, Alessandro con la sua tastiera. E poi lui approva o meno. Sì, esatto. E poi io sì. È una sorta di voto continuo. Bene, allora facciamo una cosa, abbiamo sentito questa new entry assoluta, quindi fatta per la nostra emittente, siamo molto contenti di questo, è una cosa molto interessante. Poi è già difficile presentare un pezzo dal vivo, nuovo, è già complicato. Quando l'avete provato, tanto per sapere questo pezzo, prima di venire qua stasera? Sì, assolutamente, l'occasione per provarlo non ci è mancata, diciamo è uno dei primi del nuovo lavoro, nuovo lavoro che sta per venire, quindi non abbiamo avuto diverse occasioni anche per provarlo senza la prova. Anche per testarlo, abbiamo partecipato a un festival. Ah, quindi l'avete già fatto sentire a qualcuno? Sì, abbiamo avuto un buon riscontro. Abbiamo avuto un buon riscontro in un contest. Sì. E diciamo che adesso stiamo quindi iniziando a presentarlo anche ad altre persone. Altri emittenti. Il Super Sound 2011 è questo? Esatto, è quello il contest al quale mi riferivo. Prima ce n'è un altro che è stata, diciamo, la nostra porta di accesso al Super Sound 2011 a Faenza, che è stata peraltro una bellissima occasione anche per incontrare realtà diverse dalle nostre, cioè chi lavora dall'altra parte dell'ostacolo, quindi etichette, produttori, giornalisti, e quindi è stata una bella esperienza anche per esibirci. Ma com'è l'ambiente di Faenza legato al MEI praticamente? È molto molto vivo. C'era una città completamente invasa dalla musica. Ogni angolo era occupato da anche una persona con una chitarra, un microfono. Veramente una bellissima esperienza. Anche il coinvolgimento delle altre parti, produttori, radiofonici, giornalisti che giravano e sentivano. Sì, questo è importante. Sì, molto. Era un ambiente fervente, molto fervente, sì. Perfetto. Tantissima gente. Ci ascoltiamo? Certo. Cosa ci ascoltiamo? Non lo so, cosa c'è in scaletta adesso? Il numero 3, sentiamo il numero 3. Ci ascoltiamo quella lì? Andiamo quella. Vuoi fare un po' di pausa allora? O vuoi suonare dal vivo? Come vuoi tu? Come vuoi tu? Facciamo, la sentiamo, ascoltiamola. Ascoltiamola, ascoltiamola. Sì. Ascoltiamo la canzone che dà il titolo all'album, okay. Cioè quella che hai suonato prima. Esattamente. Esattamente. Sì, sì, ascoltiamo il disco. Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, abbiamo sentito la versione da disco di Pan de Zenzero. E una cosa che mi ha detto Riccardo, c'era Simona che cantava. Stasera non ha mica cantato prima, no. Assolutamente. Però c'era che faceva un piccolo coro. Sì, sì, piccolissimo. Come mai? È stata un'idea tua o di Riccardo di fare questo piccolo coro? No, veramente era tua. Dal tecnico dello studio. Ah, dal tecnico dello studio, che lo ma citiamo. Ha avuto un parere esterno da un nostro caro amico tecnico, Alessandro. Alessandro, di uno studio a Palermo. A Palermo, registrato. Ha avuto questa idea. E ha avuto questa idea, sì, di sì, mettere detto, anche ma perché non provi? Proviamo. In realtà ero partito dall'idea di una seconda voce, cioè di una voce sovrapposta. Ci stava bene, la ci stava bene. Mia, ma sovrapposta. Ci stava poi bene. In realtà però abbiamo preferito affiancare una voce femminile che facesse da contraltare. È giusto che sia così. Ma tu hai mai avuto questa esperienza canora? A livello scolastico, ma mai di niente di così professionale. Si è cimentata, infatti è stato un divertimento anche per questo, per riuscire a cimentarci anche tutti quanti. Riccardo, citiamo anche gli altri musicisti, al di là della band, che hanno partecipato al disco. Sì, dunque, allora, hanno partecipato oltre Però stiamo parlando già delle novità. Sì, sì, delle novità. Sì. Hanno partecipato un'altra ragazza che ha studiato canto, che si chiama Valentina. C'è quel pezzo molto, molto Phil Spector anni 60. Sì. È molto interessante. E dopodiché, ovviamente, il nuovo tastierista che ho incontrato, certo, era già in studio con noi. Per il resto eravamo sempre in studio. Produzione è tua totalmente? O no? Per questa novità, sì, ancora sì, però stiamo vagliando. Diciamo. Un produttore? Sì, c'è qualcosa in gioco che adesso dobbiamo definire meglio. Ho capito. Per questo ti dicevo prima dicembre come periodo. Quindi sai il periodo giusto per vagliare determinate cose. Esatto. Sei sempre rimasto tu nella tua vita canora musicale? O hai avuto dei cambiamenti? Intendi... Cioè dall'inizio ad adesso, insomma, è cambiato qualcosa in te nel modo di interpretare, di scrivere, di essere? Sicuramente. Che rapporto hai praticamente con la musica, insomma? Sì, sicuramente come modalità di cantato, anche come modalità di interpretazione dei miei brani, sicuramente un'esperienza in più che mi ha dato anche questa serie di concerti che siamo riusciti a fare con un tour, certo, associato al disco, che devo dire è stato fortunato perché abbiamo comunque girato abbastanza, sia in Sicilia che in Italia. E mi ha dato sicuramente più sicurezza in me stesso, più voglia di esprimere meglio, anche scandire meglio certe parti di un brano, certe parole. Sicuramente quindi una maggiore vivacità nel cantato, una maggiore forza espressiva. Ecco, cioè praticamente nella fase live aggiungi, attacchi la tua vena cantautorale alla vena rock della band praticamente. Esatto, sì. Riesco a dare un attimo, stiamo lavorando per questo, per unire un attimo le due prospettive. Certamente. Sarebbe un bel connubio. Che è la sintesi, insomma, giusta. È anche un'evoluzione naturale. L'idea giusta, la sintesi giusta dell'evoluzione della band. Esatto, vostra, esatto. Insomma, anche perché ero partito da solo. Quindi, esatto. Insomma, cioè, è un arco di cose che si associano a seconda anche delle possibilità e delle, è più appagante, delle esperienze, ed è anche più appagante. È certo, più appagante. Partire da solo c'è difficoltà e anche difficoltà nel senso anche dall'altra parte sei da solo, quindi sai come gestire le cose. Con di più con la band il discorso un po' cambia. È ovvio, sì, perché insomma con più persone con le quali anche confrontarsi, ci sono più idee in gioco ed è anche più difficile ma più bello gestire il lavoro. Certamente, più bello, insomma, più bello. Dà una sintesi più completa. Chiaro. Rispetto a quando sei appunto solo, da solo. Ricordo che questa è sempre le Blu Radio Veneto, la vostra emittente, come dico io, preferita. Vi ricordo le nostre frequenze 88.700, 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Stiamo cercando di conoscere, di farvi conoscere ovviamente a voi ascoltatori in questo momento sintonizzati, questo lavoro, questa proposta musicale chiamata Il Pan di Zenzero, suonata, cantata, musicata insomma da Riccardo Piazza, da Simona a Letto e sì, poi da tutti gli altri musicisti che avevamo, certo, poc'anzi. Però questo è stato un punto, adesso lui sta per avere un secondo punto, insomma, quello ancora più, quello che dovrebbe decretare ancora di più la consacrazione, insomma. Esatto, sì. Adesso seguiremo infatti un altro brano che è anche questa una bella novità ed è un pezzo che si chiama Autogestione ed è stato fatto con tutti gli strumentisti sovracitati più qualche aggiunta. Ok. Radio Veneto, bella come non l'hai mai sentito. Teme non è più, non fa così paura. Se ci aggiungi una E in più, se ci aggiungi una E in più. Amore mio, non sai quanto ho faticato. E sì che ho sbagliato, ma morirò contento. Una mela dopo i pasti e ci siamo visti. E poi quello che conta è il resto. E poi quello che conta è il testo. Ho chiuso bene la la mia paura nel cassetto ed ho gettato la chiave dove non ricordo ed ho stracciato la foto del mio compleanno, quella dove c'eri anche tu vicino a me. La diversità delle persone, i diversi modi di agire, ogni volta è un po' ricominciare. Io non ci sarò e non ci voglio essere, allontanati da me e allontanati pure da te. Ho chiuso bene la mia paura nel cassetto ed ho gettato la chiave dove non ricordo ed ho stracciato la foto del mio compleanno, quella dove c'eri anche tu vicino a me. Chissà se hai già i capelli bianchi e due vagoni di rimorso ai fianchi, a me non interessa più. Chissà se hai già i capelli bianchi e due vagoni di rimorso ai fianchi, a me non interessa più. Chissà se hai già i capelli bianchi e due vagoni di rimorso ai fianchi, a me non interessa più. E chissà se hai già i capelli bianchi e due vagoni ai fianchi, a me non interessa più. Che bella che è questa. Sì, bella e sofferta, sofferta rispetto all'altra, esatto. Molto più intimista, molto più, cioè, scavavi nell'interno. Sì, questa è un attimo di introspezione, diciamo, fatta canzone, perché è rivolta ad un ricordo preciso. Io ho un tema, uno dei temi che tratto è appunto quello del ricordo. E spesso, insomma, riesco a mettere in canzone quello che mi ha magari fatto soffrire anche in passato. E da lì mi sento meglio, dopo che l'ho messa in canzone. È catartico. Sì, riesco anche a vederlo lì buttato giù in canzone, sono più sereno, insomma. È anche uno sfogo, la musica, certo. D'altronde è anche questo. E sono le prime volte che la fai sentire questa canzone o già nei tuoi concerti? Se vedere? Escludiamo i contest al Collesano e al Super Sound, è proprio una delle prime volte, primissime volte, sì. Quindi abbiamo un'esclusiva? Sì, esattamente, sono molto contenti di questo. Mi fa piacere. Poi ti aspetteremo col disco nuovo, però, ovviamente. Questo era già sottinteso, non puoi dirmi di no, vero? No, assolutamente no. Guarda che ti hanno sentito tutto il mondo. Sì, da tutta l'Italia, sì. Bene. Siamo anche in streaming. Una promessa con l'Italia. Senti, Riccardo, che rapporto c'hai con il pubblico quando vai nei live? Quando vado nei live, tanto, forse già accennavo prima, tento un attimo di dare un'impronta più simpatica, di coinvolgere un attimo anche chi sta di fronte al palco, perché non mi piace isolarmi nella, diciamo, nella mia esecuzione. Vorrei che anche il pubblico, chi sta ascoltando, riuscisse ad entrare all'interno di quello che sto suonando, diciamo così, attraverso l'ascolto, e non solo, perché anche attraverso una sorta di scambio verbale di battute può anche suscitare nel pubblico la presenza e anche essere quindi la voglia più probante di essere presenti anche a quel concerto lì, insomma. Spieghi sempre le canzoni e tento di dare, diciamo, una spiegazione logica e razionale di quello che scrivo, e ovviamente certe volte ci scappa anche qualche battutina scherzosa, certo, ovviamente, d'altronde serve anche a smorzare la tensione, giusto, sì. E qualche aneddoto anche che riguarda le registrazioni magari di quei pezzi, e diciamo serve tutto a allentare quella morsa di tensione che ci può essere tra il pubblico e un artista. Ti facciamo un po' di pubblicità, io so che domani sera suoni. Esattamente. E canti, ovviamente. Sì, domani sera suoniamo, suono e canto. Dov'è che siete? Qui presente. Al basso siamo a Stanghella, sì, qui vicino. Sì. Sì. Siamo all'Enoteca da Luciano per una rassegna di musica cantautoriale che si chiama Grido Underground. Uh-huh. E presenteremo una scaletta dei, ovviamente, dei nostri pezzi, più qualche buona novità, come avete visto, e ci sarà da divertirsi. Certo. L'appuntamento a che ora è? L'appuntamento è per le 10. Per le 10. 22? Sì, ora diciamo quasi classica, standard di inizio live. Se siete di passaggio venite. Volentieri, più che volentieri. Salutiamo anche il responsabile di questa manifestazione. Lo conosci? Lo sai? Non lo conosci? Sì, si chiama... dovrebbe chiamarsi Mario. Ci siamo sentiti ora un attimo via internet. Ok, insomma. Ciao Mario, allora, se sei all'ascolto. Quindi ancora una volta, come tu hai detto in qualche altra occasione, live è una coesione di più sensazioni, perché la band, le due ragazze e il tastierista ti danno sensazioni che tu proponi chiaramente alla gente, anche domani sera a Stanghella. Certo, è una... Anche se domani sera ci sarai solo con la Simone. Domani sera sì, saremo solo in duo acustico, come... Ma come adesso. Come adesso, come spesso capita anche in queste occasioni dei giri che andiamo a fare in Italia, anche non lontani dalla nostra base, da Palermitano, ovviamente. E il bello è anche un attimo proporre un live set diverso, un po' poliedrico, diciamo così, rispetto a quelle che sono il classico quadrivio con tastiera, batteria, chitarra e basso. A volte siamo più acustici, ecco, diciamo così. Domani sarà una di quelle volte. Beh, ascoltiamo qualcos'altro? Sì, facciamo quella famosa domanda che fai qualche volta. La fai tu o la faccio io? No, fai te. La modifichiamo? Sì, la fai te. Cosa ti piace di musica? Se dovessi partire per un posto remoto dove sei solo tu, cosa ti porteresti? Su un'isola deserta, famosa isola deserta. Famosa isola deserta. Un'isola deserta. Ti diamo 3 CD. A testa, non si può copiare, assolutamente. Allora, sono un po' forse scontato e banale, perché magari potreste immaginare già la mia risposta, però uno è sicuramente un CD di De André. Certo. Non al denaro, non all'amore. Bellissimo. Uno, secondo me, dei migliori. Bellissimo. Sia per qualità espressive, sia per temi trattati, insomma, penso sia genericamente il più bello, esteticamente anche il più bello da ascoltare. Poi sicuramente avrei la preferenza per un gruppo dell'anima, diciamo così, British. C'è un gruppo che non mi ha mai lasciato, perché ha segnato, diciamo, un attimo la mia adolescenza. Ascoltavo molto i Clash, quindi una robetta da niente. Sì. Esatto, esattamente. London Calling non lo conosce nessuno, esatto, diciamo una cosa da niente, esatto, sì. Un'elite. Bellissimo. Poi è l'ultima sì, ma non meno importante, per quanto me ne verrebbero tante altre da dire, però lei soprattutto, esatto, sono loro, assolutamente loro. Non potrebbero mancare anche per dar la carica la mattina in questa isola deserta, naturalmente. E poi a me piace moltissimo Patty Pravo. Ah, come mai? È una voce, perché riesce a dare, secondo me, è una voce particolare per essere una voce femminile, una voce molto corposa, molto, oserei dire, profonda. anche trasgressiva, anche trasgressiva, assolutamente trasgressiva, perché all'epoca, dato che io comunque ho una voce abbastanza profonda, ritrovare queste caratteristiche comunque di trasgressione, di profondità canora anche in una donna, per i temi trattati, me la fa, diciamo così, preferire in confronto a qualche altra, anche se ne potrei dire tante altre, anche il filone, diciamo così, americano del, di storyteller, si parlava anche di Tori Amos, sì, come no, esattamente, molto, una delle mie preferite, diciamo, però se mi dovessi limitare porterei quei tre, ecco. Benissimo. Passi da, un artista a un altro, insomma, sono tre stili completamente diversi. Sono stili diversi, però sono generi che in qualche modo mi hanno condizionato tutti quanti. Secondo me è bene un attimo ascoltare di tutto. Un po' di tutto. Certo. Poi ovviamente ti puoi preferire qualcosa, puoi instradarti su un certo percorso, però senza mai dimenticare quello che, certo, hai ascoltato anche nell'adolescenza, perché fondamentalmente è anche quello che ti forma poi. Certo. Questa è la Patti instradata da Vasco, ma va bene lo stesso. Va benissimo, va benissimo. Va bene lo stesso. Tocca a Simone adesso. Beh, io, anche io, spazio un po' tra generi diversi. Allora, sicuramente non mancherebbe un l'oroscopo speciale di Samuele Bersani, che io amo moltissimo. Cioè, porterei quasi tutto di Samuele Bersani, però quello in particolare. Poi, sicuramente, restando sempre nel cantautoriale italiano, un CD di Niccolò Fabi non potrebbe mancare. Quale? E non è. Ah. Non è, che è meraviglioso. E poi, andando un po' sul rock più alternativo, Origin of Symmetry dei Muse. Ah, che i Muse hai citato, amo bene. Tantissimo. Muse, hanno un bel muro di chitarre i Muse. Sì, sì, sì, sicuramente in questi tre non potrebbero mancare. Ok, benissimo. Eccoli, esatto, qua i Muse, eccoli, eccoli, famosissimi, sì, sì, sia in Inghilterra ma anche in Italia, sono molto amati, sì, moltissimi, sì, in Italia, sì, sì, visto che qualcuno sta per sei mesi dalle nostre parti, mi pare. Sì, ah, sì, stava, adesso non so se, però è abitato, cioè frequenta sì, spesso e volentieri l'Italia. Sì, sì, sì. Bene, adesso ci ascoltiamo ancora qualcosa di vostro, perché vogliamo sapere qualcosa di più da questo disco nuovo, oppure no? Ci fai ascoltare qualcosa del vecchio? Facciamo allora qualcosetta di vecchio adesso, diciamo così, vecchio cronologicamente, perché non so, vecchio sembra un termine un po' così, cronologicamente sì, più antico, il pezzo si intitola Io nel regno delle bambole, ed anche qui c'è una, ci sono io in particolar modo e gli altri in modo meno particolare. Ok. Scusami, è la parola più banale del mondo. Fidati, la dico con tutti quanti in un giro tondo. Aspettami, che non ho ancora finito di immaginarti. Cosa vuoi che ti racconti? Cosa vuoi che io ti canti? Della mia solitudine, il regno delle bambole. Cosa vuoi che ti racconti? Cosa vuoi che io ti canti? Della mia solitudine, il regno delle bambole. Scoprimi, lo dico le persone, ai loro amanti. Ogni Natale con la luce accesa di quelle sere sulla cinepresa, quando morivo di vitalità rubando dalla torta. Ogni Natale con la luce accesa di quella sera sulla cinepresa, quando morivo di vitalità rubando dalla torta. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Cosa vuoi che ti racconti? Cosa vuoi che io ti canti? Dalla mia solitudine, nel regno delle bambole. Cosa vuoi che ti racconti? Cosa vuoi che io ti canti? Dalla mia solitudine, nel regno delle bambole. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ho notato che quando suona e canta Riccardo, lui sorride sempre. C'hai l'allegria proprio mentre canti le tue canzoni. Bello questo qua. Perché diciamo che ogni canzone mi fa tornare alla mente certi stati d'animo, certo. Anche certi ricordi, e quindi li impersono durante le esibizioni, sì. Nella recensione che abbiamo scritto noi della redazione abbiamo notato che c'era un inizio sottilmente a stelle e strisce, era molto americano l'inizio, l'intro del giro dell'accordo iniziale. Poi chiaramente il discorso cambia, però questo stelle e strisce, questa America che entra, viene fuori, ritorna, c'è poco da fare. Sì, è un, diciamo così, l'intro è abbastanza tipico, diciamo. Americano, assolutamente, countryggiante, sì, leggermente sì, countryggiante, sì, sì. Dopo chiaramente è ovviamente tutto di Riccardo e del vuoto apparente, che c'è niente da dire, però all'inizio è così, sì, ma è una cosa niente ma di male, anzi è positivo. È un'influenza che non nego, diciamo. Certo, perché? Anzi, diciamo, non ne vedo il motivo anche di nascondere certe cose. Assolutamente. È una mia particolare influenza. Il country è un genere che non disdegno, devo essere sincero. Nashville? Cosa? Nashville? Ti dice Nashville? Sentito qualcosina. E quindi certe volte in alcune mie esecuzioni, diciamo così, in alcuni miei pezzi, amo comunque mettere un intro particolare che richiami queste vene country o folk, appunto. Chiaro, chiarissimo. Sì. C'è un... come dire, un sassofonista di Alcamo che ti sta ascoltando. Ah. Si chiama Giovanni Pitò. Oh, conosci? No, non conosco. Comunque, ciao Giovanni. Allora. Ecco. Si parlava di Sicilia, di Alcamo. Sì, vedi allora. Oh. Ci ascoltano. Non abbiamo ancora detto, Riccardo, i tuoi dati, se qualcuno volesse raggiungerti, il tuo sito. Sì, noi abbiamo un sito ufficiale che è raggiungibile dal link www.vuotoapparente.gimdo.com. Questo è il sito ufficiale, dopodiché abbiamo anche un MySpace, che naturalmente è raggiungibile dal classico link MySpace, www.myspace.com/qualcosainvero, tutto attaccato. Poi ovviamente c'è anche naturalmente la pagina Facebook, per chiunque volesse cercarci basta scrivere Vuoto Apparente su Facebook e ci trova facilmente, insomma. Bene, e per quanto riguarda invece il disco, dove si può trovare? Per quanto riguarda il disco è reperibile sicuramente nella prima piattaforma digitale, diciamo, disponibile, che è iTunes, quindi cercando sull'iTunes Store, che è conosciamo. Esatto, una categoria particolare di moda, di digitale iTunes, ormai è di moda, sì, soprattutto nel cosa ne pensi in merito? Preferisci il disco fisico o il digitale? Forse cos'è la tua posizione? La persona sbagliata, sono molto restremista in questo campo. Ti rispondo sicuramente disco fisico. Siamo in tre. Anzi, se proprio dovessi scegliere un supporto, direi vinile. Meglio ancora, siamo in quattro. Addirittura sono molto old style in questa risposta, sì. Però ha un fascino tutto particolare. Ma anche il suono è diverso. Anche, voglio dire, anche il gracchiare della puntina sul vinile, certo. È qualcosa di, secondo me, molto affascinante. Una cosa che ovviamente con la musica digitale, con la fruizione che c'è adesso, non lo trovi più. No, certo. No. C'è un piccolo ritorno al vinile, c'è stata un'inversione di tendenza. Il vinile non è che, cioè, le vendite del vinile di adesso chiaramente non sono paragonabili a quelle di qualche anno fa, però c'è un ritorno positivo. Ci sono molti negozi che riprendono a è vendere vero, i vinili. È vero, è vero. Ho visto molte postazioni commerciali che vendevano vinili in esatto, quantità. Quindi... è molto bello anche mettersi a cercare, a, certo, ad esplorare quel mondo che, insomma, portiamo, almeno io porto sempre con me. Certo. Perché ho un vinile a casa, quindi insomma, ogni volta quando anche, voglio vado a mettere qualcosa. Ma anche il suono stesso è molto più caldo, molto più pieno, insomma, sì, che non CD stesso, sì, in sì, sé, sì, anche sì, se è registrato benissimo, ma è più freddo, insomma, più... è un attimo una riproduzione di stampo diverso, sì. Sicuramente nel vinile c'è quel fascino anche antico di suono più completo che nel CD ovviamente trovi più meccanico, e poi c'è una copertina come si deve, e poi un CD è piccolo, brutto, è affascinante quanto brutto. Mai. Appunto, CD, qualcuno dice è piccolo, brutto, è vero, è piccolo. Poi la copertina, se vediamo la copertina, un quadro. Mi ricordo quindi degli Yes di Roger Dean, erano dei quadri veri e propri. Sì. Quella è un'altra cosa, sì. Se viene davanti, è un'altra cosa. Un'altra cosa, decisamente. A proposito della copertina, sì, nel retro della copertina del libretto ci sono due bambini con un lecca-lecca in mano. Chi sono? Sono curioso. Posso? Allora, qui entra in gioco una persona che. Che di fianco, è la fotografa, ci siede a fianco, esattamente. Ciao Simona. È Simona, sì. Ti ringraziamo per le foto. Che ringraziamo assolutamente, perché c'è sempre di tanto aiuto, soprattutto per quanto riguarda la parte grafica di ogni nostra composizione, di ogni nostro tipo di lavoro. E questa è una sua foto. E, mi è sembrato azzeccato associare un attimo, sempre ritornando al tema della facile dolcezza, a due bambini. E, bella questa foto come copertina, sì. Davanti invece ci sono tutti i biscotti, una sorta anche di malinconia, poi ovviamente davanti c'è il biscotto. Che è il simbolo del pan di zenzero, insomma, certo, sì, certo, assolutamente. Vuoi riposarti un pochino, facciamo ascoltare qualcosa dal disco, va bene, così ti rilassi, direi, un po' con la e poi facciamo il rush finale, va bene, sì, va okay, benissimo. Cosa ci facciamo ascoltare adesso? Viale Mazzini, Viale Mazzini, che è molto bello, un pezzo, che è un pezzo molto particolare, molto folk, sì, molto. E dove folk abiti tu? Viale Mazzini 53, e dove ho abitato, poi vi svelerò. Ok. Questa rincorsa sfrenata, questa tua pedalata alla chiesa fin qua. Hai attraversato un paese di media borghese fino a Viale Mazzini 53. Qui tu passavi il tuo agosto fra le ferie piuttosto che stare in città. Quell'albero dove giocavi di più, lì tu versasti una lacrima che mamma tua ti asciugò, lì tu versasti una lacrima che mamma tua ti asciugò, e le tue corse sfrenate, i amici d'estate di età in età. Faccia vissuta, il tuo primo bacio, che effetto ti fa? Ora non hai più 10 anni, una donna e i suoi affanni con l'università. E in quel cassetto di casa tua, lì dove lei ti curò, ogni ferita che brucia ancora fra quelle foto di allora, ogni ferita che brucia ancora fra quelle foto di allora. Dicevo, in quel cassetto trovasti un biglietto di tanti anni fa. E dentro i suoi tratti in rima, nella tua autostima, i gesti più in là. Parole di biasimo, amorevole calma di chi sola con il suo sorriso sa di averlo passato a te, sola con il suo sorriso sa di di averlo trasmesso a te. Viale Mazzini 53, che adesso campagna è. Viale Mazzini 53, che adesso campagna è. Viale Mazzini 53, che adesso campagna è. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Con Maurizio Calzavara e con il sottoscritto Agostino Spalore siamo in diretta qui a Blu Radio Veneto, la radio di Padova ovviamente, insomma, ma abbiamo anche altre sedi. Stiamo cercando di farvi conoscere questo Riccardo Piazza, che è in arte Vuoto Apparente, che fa parte di un progetto uscito nel 2010, se non sbaglio. Prima però consentimi di salutare un carissimo amico che ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere quando sono venuto nella tua terra, Riccardo, di Alcamo ovviamente, sempre, che ormai Alcamo, sempre, ho inflazionato. È una cerchia. È un violinista carissimo, si chiama Giovanni, al quale mando un caro saluto da Padova e speriamo di rivederci presto. Ciao Giovanni. Ci associamo allora, certo. Al saluto. È un tuo compaesano, insomma. Beh, sì, più o meno. La vicino, diciamo, la vicino. Palermo e Alcamo non distano poi tantissimo. Esatto. Dicevi, questo pezzo è rimasto inalterato nei live perché deve essere un pezzo tuo, cioè chiaramente con il gruppo, però una dimensione molto tua. È una dimensione, sì, abbastanza intima per questo pezzo, perché sorta di format che è insito all'interno del brano stesso. È un brano nato che io subito l'ho inquadrato come solo per chitarra, con poco altro, al massimo un suonaio o un piccolo accompagnamento, comunque molto minimale, e quindi durante i concerti solitamente lo eseguo in solitario. E questa è una via famosa perché è la via dove fanno i live alla Rai, via Mazzini, tu essere della Rai di Roma, quindi praticamente... Tutti mi dicono, ma non è via le Mazzini della Rai, no? Le Mazzini in realtà è una di una casa, di una mia casa di villaggiatura, di qualche tempo fa. Di tanto tempo fa, sì, un po' di anni fa, e quei ricordi di quel paese dove andavo a villeggiare sono stati trasposti, diciamo, tutti in questa canzone. Che ha per protagonista però un'altra persona che io conosco, che era pure di quel paese lì, sul quale poi ho scritto poi tutta questa canzone. Benissimo, è assolutamente un pezzo folk, assolutamente. Molto, che ricorda molto i tuoi amori, quindi De André in primis. Esattamente. Cosa ti aspetti da questo disco in generale? Da Pan di Zenzero, sì. Intanto siamo riusciti, diciamo così, una volta finito di produrlo, siamo riusciti già a distribuirlo nelle migliori piattaforme di internet. Poi abbiamo comunque fatto un tour che ha seguito questo disco, che ci ha visto girare parecchio, sia in Sicilia che a Roma, anche in un teatro, che nella provincia di Milano. Roma, dove sei nato a Roma? A Roma al Teatro San Luca, in zona Prenestina. E a Milano? A Milano nella provincia, a Vimercate, precisamente sì. Ed è stato sempre nell'ambito di una rassegna di musica cantautoriale e diciamo ha avuto una discreta presa come ascolto e come vendite. Sì. Quindi sei stato soddisfatto? Sono rimasto, sì, abbastanza soddisfatto, e penso anche le mie compagne. Sì, qui. sì, è anche un modo appunto per farci conoscere, far conoscere soprattutto... le idee di Riccardo, sì, il progetto fondamentalmente di Riccardo. Sì, le idee sono sue, quindi e sono bellissime idee comunque. Sì, assolutamente. Te lo garantisco. E non è facile trovare idee così belle, grazie, dal punto grazie. Di vista cantautorale ovviamente, insomma. Allora, sì, giustamente dicevi, sì, scusa un secondo Agostino, sì, presentare fuori della Sicilia due eventi a Milano e a Roma è stata una cosa positiva, vi ha fatto conoscere, eccetera. Quindi portare avanti un discorso che non è, come avevamo detto all'inizio, che è difficile proporre musica propria, sì, in questo termine, però è stata positiva. È stata un'impresa, diciamo così, difficile, perché appunto, come si diceva prima, per gli emergenti, perché comunque chi fa musica propria è molto, molto complesso lasciare i confini della Sicilia musicalmente parlando, e quindi dal nostro punto di vista è stata sicuramente una conquista non da poco, certo, riuscire a suonare anche in un teatro, che è un ambiente del tutto diverso dai live club dove di solito ci esibiamo. Sono le 22:19 in questo istante, Riccardo, facciamo ascoltare una canzone, direi, dal vivo, e poi torniamo in studio e ci salutiamo. Ok. Cosa ci fai ascoltare adesso? Cosa propone la scaletta? E allora adesso, come gran finale, diciamo così, proponiamo una nostra altra novità, una di queste tre novità che oggi abbiamo pensato di presentarvi. Il titolo della canzone è Ti lascerò parlare, ed anche questa anticipa un attimo i nostri piani futuri. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Fine degli eventi, ti dirò se hai ragione, mi riempi le notti d'amore. Ti lascerò parlare ogni fottuta ora dei miei giorni, la mattina, la sera, d'estate, anche in primavera. E non mi prendere per quello che non sono, che voglio parlare di tutto, sia dei fatti miei che nei fatti tuoi. So soltanto che alle volte il silenzio è d'oro, della tua gioia, tutte le stelle, quando lo capirai, mi ringrazierai. Campagna in campagna, fra le nuvole pure in montagna, in un campo di fiori davanti una vecchia Romagna. Voglio tanto bene, sì, sei tanto bella, ma taci, è importante capire quando ci si deve zittire. E non mi prendere per quello che non sono, io voglio parlare di tutto, sia nei fatti miei che nei fatti tuoi. So soltanto che alle volte il silenzio è d'oro, della tua gioia, tutte le stelle, quando lo capirai, mi ringrazierai. Hey! Camminare a piedi nudi oppure sulla sabbia, ascoltando soltanto la voce che mi gira in testa. Di quella io sono il padrone, di quella sono il patriarca, il signore assoluto, il monarca francese a Versailles. Ma non mi prendere per quello che non sono, io voglio parlare di tutto, siete i fatti miei, siete i fatti tuoi. So soltanto che alle volte il silenzio è d'oro, più della tua gioia, di tutte le stelle, quando lo capirai, mi ringrazierai. Vedi cosa serve l'assistente, anche a mettere a posto la spinetta che se ne andava via. È per assolutamente indispensabile. Veramente. Che c'hai messo un tocco di blues, mi fa piacere. Sì, decisamente c'è un tocco di blues. È molto folcheggiante, però anche un tuo tocco di blues. Che non fa mai male alla salute, secondo me, musicalmente parlando. Sì, sì, sì, che dà un ritmo tutto particolare, un coinvolgimento che solo il blues anche sotto. Certo, è molto bello questo pezzo e vuol dire che ci saranno tante strade da percorrere nel nuovo disco, secondo me. Sì, è una abbiamo tante nuove idee. Sorprese, tante idee da mettere in atto e sicuramente... Ci sarà molto da lavorare, ovviamente, però le idee di base ci sono tutte. E sono belle, ripeto. Sì, sì. Allora, prima di chiudere, ovviamente ripetiamo i tuoi dati se qualcuno volesse contattarti. Sì, assolutamente. Il nostro sito ufficiale è www.vuotoapparente.gimdo.com. Poi abbiamo anche la pagina MySpace, www.myspace.com/qualcosainvero, tutto attaccato. Oltre ovviamente c'è la pagina Facebook, cercando Vuoto Apparente su Facebook salta fuori subito. E, altri contatti, ricordiamo un'altra volta la band al completo. La band al completo ovviamente oltre a Simona al basso, Simona Letto al basso. Poi abbiamo Cristina Di Maio alle batterie, che salutiamo, che ci starà ascoltando. Ciao Cristina. Sì, Cristina. Ed Alessandro Messina alle tastiere. Ciao, salutiamo anche lui. Salutiamo anche lui. E poi ovviamente Riccardo Piazza. Dai, salutiamo anche lui che, sì. E che ricambio con molto affetto. Il disco dove lo troviamo? Il disco Pan di Zenzero ovviamente è disponibile sulle piattaforme digitali di vendita, quindi su iTunes assolutamente, su tutti i tipi, anche Amazon ovviamente, sono tanti i siti che danno a disposizione questi CD venduti commercialmente. Ricordiamo la data di domani ancora? La data di domani è importante perché ci vedrà Stanghella in occasione di un'enoteca da Luciano, precisamente ore 10, per la rassegna di musica autorale dal titolo Grido Underground. Prossimi concerti? Prossimi concerti, ci sono altre due date di Muovo nella Terra a Palermo, torniamo giù e facciamo altre due date con la band al completo. Una al Gatto Nero Pub, sempre a Palermo, ed un'altra un bel posto al Mi Calza Bar, Piazza Calza, Palermo. Salutami tanto la sono Sicilia. Il 20, te la saluterò sicuramente, sono il 20 ottobre l'una e il 26 ottobre l'altra. E il disco nuovo verrà qui, quindi lo sapremo quando verrà qui a presentarselo, certo. Quando uscirà. Il disco nuovo quando uscirà ben volentieri. Riccardo, noi ti ringraziamo veramente di cuore di essere venuto qui questa sera. Ma ringrazio voi. Grazie a voi. La tua musica assieme a Simona e anche all'altra Simona che fa le foto. Esattamente. E mette a posto le spinette, che è importante. Mette a posto le spinette, che è fondamentale. Allora, di nuovo, quindi grazie da tutti noi. Di nulla. Noi ci risentiamo giovedì prossimo. Non ho altre prime interviste, vero? Sì, no, domani abbiamo un altro concerto con Maria Grazia Lonetti, mi pare. Che è una musicista che viene da Parma, per il calabrese lei, con tutta la band e fa musica tra il folk e il rock, molto interessante, molto frizzante come personaggio, ma di sera alle ore 23 in diretta con Marco Borgato. Benissimo, io vi do appuntamento a giovedì prossimo, andremo in Emilia Romagna con Alberto Despini e la sua musica cantautorale, tra l'altro scrive anche molti testi come te. E quindi un buon proseguimento all'ascolto dei programmi che continuano con Alberto Prisco e la sua musica che è già arrivata, la sua musica rock, consigliatissimo, se ti capita di ascoltarla fallo, perché ti dà sempre cose nuove e soprattutto mondiali, quindi molto belle. Ben volentieri. E Maurizio, ciao, buonasera a te. Ci salutiamo con l'ultima canzone. Cosa ci fai ascoltare? Ci facciamo ascoltare adesso un'altra canzone dal CD di Pan di Zenzero, che è La fine del piccolo principe. Benissimo, ciao. L'unica cosa che hai lasciato a me sono i tuoi ricordi, il tuo sorriso dentro di me. L'unica cosa che ti rende diversa da me sono il tuo rossetto, i tacchi alti della sera. Noi non ci vediamo mai. Ci vediamo mai, noi non ci vediamo mai. Ma la mia esuberanza è la tua lealtà. Questa impazienza, ma con molta eleganza. Primavera in te, la primavera non fa per te. Primavera, cosa bere ai tuoi occhi dopo l'esame? Noi non ci vediamo mai. Noi non ci vediamo mai. Noi non ci vediamo mai. Poi mi ritroverai nei tuoi sogni più noir, in una strada di campagna, o forse magari a Chinatown. E non mi crederai quando ti dirò che il piccolo principe ha abdicato senza un perché. Noi non ci vediamo mai. Ci vediamo mai. Noi non ci vediamo mai. È un mio modesto parere, questo fattaccio ci perseguiterà. Grazie, grazie, grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. Ciao.